ore 9:12 del 12 agosto. Come ogni giorno sto compiendo il mio dovere di inquinatore. Il tutto con questa grande ondata di caldo che avvolge l'intera Europa e aggiunge un ulteriore elemento di regressione medievale e di paura millenaristica a un clima complessivo nazionale e internazionale che è forse il peggior clima dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Sono finiti tutti gli impulsi che erano nati con l'ultimo grande trauma e quindi ci sono solo scampoli di soddisfazione individuale che puntualmente vanno a scapito di qualcun altro. Non c'è nessuno slancio ideale. Dopo l'11 settembre in particolare c'è un clima proprio di regressione medievale al quale hanno contribuito sia i terroristi islamici, indubbiamente, ma anche i nostri intellettuali, alcuni nostri intellettuali o sedicenti tali. E poi, sì, questo forse è il tema centrale, però ci sono alcuni elementi di contorno che sembrano quasi voler porre il tutto nel giusto quadro iconografico. C'è stata la SARS, che ha rappresentato l'elemento manzoniano. Poi ci sono questi aspetti un po' alla Nostradamus, no? Cioè, israeliani che minacciano di clonare l'uomo, poi puntualmente dopo una settimana spariscono dalle cronache senza che nessuno, soprattutto senza che nessun giornalista chieda scusa per la grandissima bufala, per l'essere caduti in questa news angle, in questa publicity stunt assolutamente devastante. E ci sono caduti in molti, Poi chiaramente prima o poi probabilmente dovremo assistere anche a questo obbrobrio della clonazione umana. Credo che faremo a tempo noi di questa generazione, però francamente aspettiamo di sentircelo dire da qualcuno che non si presenta come la setta dei reliani, perché insomma in questo clima medievale noi italiani non, sicuramente quando si tratta di medioevo siamo degli specialisti. Non vogliamo essere da meno, e allora che facciamo? Torniamo allo Stato, ma non è tanto il problema di essere un regime fascista o meno, io credo che sia un problema ben più grave, cioè quando il governo dice che praticamente vuole sottoporre la magistratura al suo controllo, si elimina il principio della separazione dei poteri, quindi praticamente si regredisce ad uno Stato pre-Locke e pre-Montesquieu. A prima delle signorie, fondamentalmente, quindi siamo in pieno medioevo. E quindi si va verso questo scontro istituzionale che ci farà respirare un sano clima sudamericano e argentino, dico così anche se puntualmente i vari poeti intellettuali sudamericani quando sentono paragonare la situazione italiana a una situazione latinoamericana giustamente insorgono, perché loro sono molto più avanti di noi. In questo clima che respireremo in stile Plaza de Mayo ci sarà sicuramente la scena alla Ceausescu, cioè dello scontro, del confronto tra il leader che pensa ancora di controllare la massa e la piazza che in realtà lo vuole bisarcionare ed è più forte di lui, si rivela più forte di lui. Credo che sarà la piazza un elemento importante in autunno, quando ci sarà questo grande scontro, dove chissà il nostro Presidente della Repubblica, chissà.